Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 4 medici arrestati e 7 operatori sanitari sospesi a Reggio Calabria, bimbi resi invalidi o morti durante il parto per errori poi coperti da quasi tutta la struttura. Troppi autisti malati a Roma nel giorno del Natale della città e a rischio la ripresa del servizio dopo lo sciopero proclamato questa mattina. Attraversa i binari con gli auricolari, investita dal Frecciarossa, una ragazza di 19 anni è morta a Milano. La Consob avvia procedimenti per sanzionare i vertici della Popolare di Vicenza e dà il via libera alla quotazione. Preoccupazione per i risparmiatori e le ricadute sociali. A Roma, oggi, Forza Italia decide sul candidato verso l'addio di Bertolaso, ma non si sa ancora se Berlusconi sosterrà la Meloni o Marchini. La torcia olimpica viene accesa e parte come sempre dalla Grecia, attraverserà anche il campo rifugiati vicino ad Atene. Stasera il posticipo di Serie A tra Milan e Carpi, ma i riflettori sono tutti per la Roma e per la prova di Totti. 2 gol in 5 minuti alla soglia dei 40 anni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e poi per le anticipazioni della trasmissione e altro potete seguire il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque la cronaca con l'ondata di arresti in un ospedale di Reggio Calabria. 2 neonati morti, lesioni irreversibili per un altro dichiarato invalido al 100%, traumi, crisi e lesioni alle partorienti e il procurato aborto di donne non consenzienti. Errori medici gravissimi coperti da cartelle cliniche falsificate ad arte e presentati alle pazienti come imprevisti o tragiche fatalità. Questo lo scenario di mala sanità che emerge dall'inchiesta della Procura di Reggio Calabria avviata su una serie di denunce per episodi verificatisi nei reparti di ostetricia e ginecologia, neonatologia ed anestesia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. 4 i medici arrestati e posti ai domiciliari, altri 6 e un'ostetrica sospesi dalla professione. Le accuse sono a vario titolo di falso ideologico e materiale, soppressione, distruzione, occultamento di atti veri e interruzione della gravidanza senza consenso della donna. Nelle conversazioni intercettate gli indagati fanno esplicito riferimento ai documenti da sbianchettare e falsificare, il procuratore capo di Reggio Calabria, Caffiero De Rao. Un po' alla volta stiamo intervenendo in tutti i settori perché nessuno pensi di essere intoccabile. Questa volta è la sanità, ma io credo che su questo sicuramente non ci fermeremo. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, il sistema di copertura illecito sarebbe stato condiviso dall'intero apparato sanitario tutte le volte in cui, scrive il GIP, le cose non sono andate come dovevano andare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito, le accuse sono pesanti per tutto l'apparato sanitario. Più avanti nel corso della trasmissione sentiremo il direttore generale dell'azienda sanitaria Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria proprio per avere delucidazioni da lui. E a proposito di sanità, nelle scorse settimane il presidente dell'anticorruzione Cantone aveva lanciato l'allarme, oggi la firma di un protocollo d'intesa col ministro Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno. Buongiorno, sì, vi parlo dalla sede del Ministero della Salute qui a Roma, dove è tuttora in corso la conferenza stampa. Sta parlando proprio il capo dell'anticorruzione Cantone per spiegare nel dettaglio in che cosa consiste questo protocollo d'intesa siglato appunto questa mattina fra il Ministero della Salute e l'autorità da lui presieduta. Di fatto istituisce delle task force, delle squadre che si occuperanno di controllare la corretta applicazione del piano nazionale anticorruzione da parte di ASL, ospedali e altri enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il piano è stato aggiornato, come sapete, lo scorso novembre, guardando soprattutto ai due settori dell'amministrazione particolarmente esposti al rischio, i contratti pubblici e appunto la sanità, che lo stesso Cantone l'altro ieri dal Salone della Giustizia era tornato a definire come uno dei più corrotti. Per sconfiggere il fenomeno ci vorrà tempo, ha detto, ma per la prima volta c'è il piano per evitare che qualcuno continui appunto a lucrare sulla sanità e sulla salute dei cittadini. Le squadre istituite da questo protocollo saranno composte da ispettori dell'ANAC, ispettori del Ministero della Salute e dai carabinieri del NAS e si occuperanno di prevenzione più che di repressione del fenomeno, mettendo in circolo, si spera, anticorpi che rendano sempre più difficile la corruzione e soprattutto in generale la malattia. Sanità. Per il momento da qui è tutto. Ti ringrazio, grazie a Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento. La politica ci porta al caso di Roma. Oggi si celebra tra l'altro il Natale della città e chissà se il Natale di una nuova candidatura per Forza Italia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. E nel giorno del Natale di Roma, Simone, potrebbe arrivare a fine binario il treno di Bertolaso. È in corso a Palazzo Grazioli, infatti, l'ufficio di presidenza di Forza Italia con Berlusconi per affrontare proprio il caso Roma e scegliere se convergere su Giorgia Meloni oppure proseguire nel sostegno all'ex numero uno della Protezione Civile. Quest'ultimo non avrebbe più l'appoggio dell'intera Forza Italia. Anche Berlusconi avrebbe più di una perplessità, per usare un eufemismo, sulla capacità di Bertolaso di correre con chance vincenti almeno per il ballottaggio. A far propendere il cavaliere per un passo indietro di Bertolaso sarebbe stato l'ultimissimo sondaggio di ieri, che lo vedrebbe non arrivare neanche al 10%. Da qui la necessità di una scelta: se appoggiare l'indipendente Marchini, comunque rappresentante di un fronte trasversale ma moderato, o convergere sulla Meloni, che proprio oggi pomeriggio alle 18 darà il via ufficiale alla sua campagna elettorale. Vicino a lei ci sarà anche il leader della Lega, Salvini. Bertolaso è fuori, dice Salvini questa mattina, non perché io sono brutto e cattivo, ma perché non scalda i cuori di nessuno e non ha fatto dichiarazioni tali da entusiasmare qualcuno. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E in coincidenza con Natale di Roma, problemi per l'ATAC, come già vi dicevamo nei titoli, a rischio la ripresa del servizio del trasporto pubblico dopo lo sciopero di 4 ore a Roma, previsto per le 12.30, per l'alto assenteismo rilevato. Lo denuncia l'ATAC, precisando in una nota che in coincidenza con la giornata di sciopero di oggi è rilevato un notevole aumento dei casi di malattia e di richieste di utilizzo di permessi, in particolare sulla linea B della metropolitana, dove risultano scoperti il triplo dei turni rispetto alla media. Di questo parleremo più avanti nel corso della trasmissione con una sindacalista dell'ATAC. Ieri vi abbiamo raccontato, con la voce invece di una sindacalista della scuola, dei problemi del concorsone che parte tra una settimana, pochi commissari, sede cambiata all'ultimo minuto. Oggi la replica del sottosegretario Davide Faraone, intervenuto a 24 mattino, attenti a quei due, ospite dunque di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Sede spostata vuol dire che c'è una scuola a Palermo e anziché in quella scuola vanno all'altra a 100 metri, per cui non è che stiamo parlando di spostamenti clamorosi. È chiaro che quando fai un concorso di questo tipo, su una riforma così contestata, ogni piccola cosa diventa un fatto clamoroso. I commissari ci sono tutti, perché si lamentava anche questo fatto, anche perché pare si prenda poco, ecco, per fare un commissario, quindi si ipotizzava di raddoppiare la cifra. Stiamo raddoppiando la cifra nel provvedimento che è in discussione già al Senato. Abbiamo presentato un emendamento governativo per raddoppiare la cifra. Ah, ecco. Ma la cifra che verrà fuori sarà una cifra che andrà tra i 700 e 800 euro a commissario, con i presidenti che percepiranno da 3.000 a 4.000 euro. E tra l'altro la scelta è volontaria, nessuno è obbligato a fare il commissario. Abbiamo avuto numerose richieste, crediamo di essere tranquilli sul numero di commissari che ci saranno, dopo che chi non vuole fare il commissario non lo fa, nessuno li obbliga. E a proposito di scuola, ci sono nuovi casi di bambini autistici esclusi dalle gite. Ha disposto un'ispezione il MIUR sul caso del bambino autistico che, secondo quanto raccontato dalla cronaca fiorentina della Nazione, avrebbe dovuto prendere il taxi insieme all'insegnante di sostegno per partecipare ad una gita. Nel frattempo il Comune di Firenze ha messo a disposizione della scuola due pulmini per la visita a Villa Strozzi. Parteciperà alla prossima gita anche Giulio, il ragazzino autistico di 14 anni, escluso la scorsa settimana dall'uscita di classe di terza media a Livorno. Questa volta la mamma è stata informata e si farà la gita a Mauthausen per gli studenti della media di Legnano, dove nessun compagno di classe si era dato disponibile a dormire con una ragazzina autistica. Sarà in maggio e dopo la massiccia disponibilità fornita dai ragazzi ci sarà un sorteggio per stabilire chi dormirà con la compagna di classe. Rischia invece di finire in tribunale la vicenda dell'Isola d'Elba, protagonista un bimbo autistico di 11 anni che, secondo la mamma, sarebbe stato vittima di atti di bullismo e tenuto spesso fuori dall'aula. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Firenze, davanti alla galleria dell'Accademia, dove c'è il David di Michelangelo, c'è un caos di abusivi e mendicanti. A dirlo è la neo direttrice, la tedesca Cecil Holberg, che ha scritto al prefetto. Adriana Fracchia l'ha intervistata. Mi farebbe molto piacere se l'entrata della galleria dell'Accademia di Firenze, uno dei massimi musei italiani statali, sia una cosa che invita i turisti a entrare, che invita proprio i visitatori, senza che vengano molestati o assaliti o abbiano la sensazione di essere su un bazar a Marrakech. Invito le autorità a far sì che questo sia possibile e che qui questo commercialismo abusivo venga soppresso. E mi farebbe piacere se le forze dell'ordine facciano sì che sia possibile non avere più questo aspetto poco decoroso davanti al museo. Se questo è abusivo, insomma, non si può fare, non si può nemmeno tollerare. È una cosa di mancata sicurezza se lì ci sono delle persone delle quali uno non sa chi sono, da dove vengono, dove vanno e vendono delle cose. Perciò qui bisogna cambiare la situazione. Fronte immigrazione, dibattito europeo, gli aggiornamenti di oggi. Bruxelles sposa gli obiettivi del Migrant Compact, ma il giudizio resta sospeso sugli strumenti e i contenuti. In una lettera indirizzata al governo italiano, il presidente della Commissione Juncker si dice pronto a lavorare su tutti i temi dell'accordo proposto dall'Italia per fermare i flussi. Juncker evidenzia inoltre la necessità di forme di finanziamento innovative, ma non fa cenno agli eurobond proposti da Renzi. D'altra parte, anche il ministro degli interni, Alfano, a margine del Consiglio europeo, invita a non dare troppa importanza al dibattito intorno allo strumento finanziario da usare per trovare i finanziamenti. L'importante è che si trovino, ha chiosato Alfano, a margine del Consiglio. Ma su come fare questi accordi con i paesi di origine, le posizioni sono ancora distanti. Credo che il modello dell'accordo tra Unione europea e Turchia, quando ce ne saranno le condizioni, potrà essere replicato anche in Libia. Klaas Dijkhoff, ministro dell'interno olandese, a nome della presidenza di turno dell'Unione. I paesi, dice, che stanno di fronte all'Italia non sono come la Turchia, quindi non si può copiare il modello d'accordo sancito con Ankara. E proprio sull'intesa con la Turchia, entrata in vigore il 4 di aprile, arrivano critiche dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passerà anche da un campo rifugiati la torcia olimpica che è stata accesa questa mattina. Dario Ricci, ciao. Simone, direi che la cerimonia che si svolge nell'antica Olimpia, nella piana dell'antica Olimpia, è il trionfo della retorica, lo sappiamo bene, e tra l'altro con i giochi dell'antichità ben poco c'entra, perché la staffetta olimpica è recentissima, del 1936, e venne creata per volere dei nazisti che ospitarono a Berlino quell'edizione dei giochi. Però la suggestione è intatta, perché questa fiamma è stata accesa con i classici canti, le classiche musiche che accompagnano questo rito, e poi ci sono state le parole del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. Sentiamolo. The flame is an ancient symbol of peace and harmony, a symbol of the power of humanity to come together despite our differences. Parole che quasi non hanno bisogno di traduzione. La torcia impersonifica questo simbolo di unità e di saper essere uniti al di là delle divisioni. Quanto mai significativo il cammino che è partito oggi e che porterà la fiamma olimpica a Rio de Janeiro per l'apertura ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici il 5 agosto, proprio perché, come ricordavi tu, la fiamma passerà anche per il centro per rifugiati di Eloinas, vicino ad Atene, e sappiamo quanto la Grecia, insieme all'Italia, sia oggetto delle tensioni relative ai flussi migratori in questo periodo. E poi importante ricordare che proprio a Rio de Janeiro, sotto l'egida del CIO, sotto la bandiera a cinque cerchi, parteciperanno in un'unica rappresentativa proprio atleti rifugiati. E mi permetto di dire, c'è anche il podcast di una puntata di Olimpia che abbiamo dedicato all'uopo, che inquadra un po' la situazione. Quindi veramente cerimonia non banale quella di stamattina a Olimpia. Decisamente, quindi andate sul nostro sito www.radio24.it e andatevi a sentire la puntata di Olimpia, così come tutte le altre, il nostro Dario Ricci, che vi raccontano storie un po' laterali, per così dire, sul mondo dello sport. Noi andiamo su quelle invece delle quali discutiamo tutti i giorni adesso, il calcio, con il nostro Carlo Genta, per parlare di questa giornata di campionato infrasettimanale. Diciamo, dal punto di vista mediatico, la scena è dominata da Totti, senza dubbio. Vabbè, no? Ma che Totti la torcia olimpica non la porta? Io infatti Ricci, dico, facciamola portare pure al Pupone. Facciamola portare al Pupone. Non so se Spalletti gliela fa accendere, perché quello va là e gli soffia sopra. Quello gli fa così, gliela spegne. Ma scusa, Simone Spezia, sindaco di Roma, candidature? Beh, anche quella potrebbe essere, visto che Berlusconi è in mezzo al guado. No, la verità è che Totti domina la scena di questo giovedì. domina la scena della capitale, ma di tutto il calcio italiano, tanto che io lancio e lancerò una provocazione, che poi provocazione non so fino a che punto sia, ma portiamola agli europei. Ma perché no? Ma agli europei si portano i più forti. E questo con la rabbia che ha, anche giocando alla Spalletti 10 minuti a partita, chissà che possa fare qualcosa per una nazionale che ha poco talento. Ma al di là di questo, insomma, il calcio è bello perché certe volte ci racconta delle storie un po' romanzate, come è questa, quella che si è... che si è consumata ieri sera all'Olimpico, con la Roma che stava perdendo, con Totti che entra in campo, che segna due gol in tre minuti, e oggi con una città che si spacca, e certamente si spacca a favore del capitano della Roma, che non si decide a chiudere una carriera ormai infinita. Però io credo che un po' di rispetto da parte anche di chi lo allena lo meriterebbe. Per il resto, ieri abbiamo visto la Juventus che si è avvicinata ancora di più allo scudetto, ma questa non era una novità assoluta. L'Inter che si è sciolta a Genova con il Genoa, ma anche questa non è una novità assoluta. Una classifica che ormai ha detto praticamente quasi tutto quello che aveva da dire, compreso in coda dove il Frosinone ha perso, dove il Palermo ormai non riesce a risollevarsi da una situazione difficilissima, dove la Fiorentina in cima alla classifica, la Fiorentina ha mollato e si è fatta sculacciare dall'Udinese. Mi sembra tutto scritto, tutto definito, quindi accontentiamoci di queste favole, anzi accontentiamoci, godiamo per queste favole di primavera come quella di Totti che sfida l'età e forse anche il suo allenatore e forse anche l'opinione pubblica, facendo quello che ha fatto ieri sera. Allora Carlo, noi ti ritroviamo dunque alle 14 per parlare anche di, qualcuno già ci scrive l'hashtag su WhatsApp, Totti agli europei, e vedremo europei, che... sì, vedremo, Totti agli europei, vedremo che successo avrà questa iniziativa. Intanto noi ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Il primo argomento che affronteremo è il fatto che è stata scarcerata quella che era stata definita l'infermiera killer di Piombino, accusata di aver ucciso 13 persone, è ancora indagata, però ci sono molti dubbi sulla ricostruzione. Torneremo a parlare con l'avvocato, a tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'inchiesta di Reggio Calabria che ha portato in manette quattro medici e la sospensione di sette operatori sanitari, bimbi resi invalidi o morti durante il parto per errori poi coperti da quasi tutta la struttura. Torneremo a parlarne anche più avanti col direttore sanitario della struttura. A Roma ci sono troppi autisti malati nel giorno del Natale della città e a rischio la ripresa del servizio dopo lo sciopero. Abbiamo parlato di Roma, inteso politicamente, con Forza Italia che oggi decide sul candidato e Bertolaso che va verso l'addio, e abbiamo parlato della torcia olimpica che viene accesa e che parte dalla Grecia e toccherà anche un campo rifugiati. Adesso ci occupiamo di una vicenda di cronaca della quale ci siamo già occupati nelle settimane scorse, ed è quella di Fausta Bonino, quella che il giorno dopo il suo arresto apparve sui giornali come l'infermiera killer, la donna che aveva ucciso 13 persone con dosi massicce di anticoagulante nell'ospedale di Piombino. Ebbene, come sapete, ieri è stata scarcerata. È un colpo durissimo all'inchiesta questa, qualche dubbio era stato già sollevato precedentemente. Avevamo ospitato l'avvocata Cesarina Barghini, che è di nuovo in linea con noi. Avvocata, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, è appunto, ci sembra di capire, un colpo piuttosto duro all'inchiesta, cioè il quadro probatorio, dobbiamo aspettare le motivazioni evidentemente, però evidentemente i giudici non l'hanno, il tribunale del riesame non l'ha giudicato valido, immaginiamo. Certo, l'ordinanza è stata totalmente annullata, quindi non è stata nemmeno applicata una misura alternativa, proprio annullata, quindi... È evidente che è stato rilevato che mancavano assolutamente i gravi indizi di colpevolezza che avrebbero potuto giustificare una qualsiasi misura cautelare. Tant'è vero che in questo momento la sua assistita tecnicamente è un'indagata a piede libero? È un'indagata, come ognuno di noi può essere indagato, basta andare a fare una denuncia, una querela e tu sei già indagato. Quindi voglio dire, la posizione della signora... una posizione assolutamente tranquilla, devo dire che lo è sempre stato, per quanto abbiamo ritenuto fin dall'inizio. Dovremo lavorare ancora, perché chiaramente si tratta di un caso importante, per cui dovremo lavorare molto per arrivare a dimostrare totalmente l'estraneità della Bonino da tutta questa vicenda. I buchi nella ricostruzione iniziale li vogliamo ricordare per i nostri ascoltatori? Erano, se non ricordo male, innanzitutto un buco sui tempi, no? Nel senso che non coincidevano i turni di lavoro della signora con le morti avvenute dei pazienti. Coincideva in genere la ricostruzione dei cosiddetti turni sospetti che era stata fatta dagli inquirenti, cioè in buona sostanza erano arrivati alla Bonino attraverso due elementi. Uno era appunto questa tavola dei turni sospetti che era stata redatta dagli inquirenti unitamente all'azienda, e l'altro elemento era l'uso che la signora Bonino faceva dei farmaci, dei propri farmaci, per la sua patologia di epilessia che ormai tutti conosciamo. Sì. E, partendo da questi due elementi, già dall'inizio dell'estate scorsa la signora Bonino era l'indagata, l'unica indiziata. Sì. Quindi non era indagata formalmente, perché ovviamente non aveva ancora notificato un avviso di garanzia, però era già indiziata da allora, l'unica indiziata. Quindi le indagini si sono concentrate esclusivamente su di lei. Credo che questa sia stata, probabilmente la lacuna più grande, a mio avviso, è stata proprio questa, di concentrare sulla base di questi due soli elementi l'indagine su di lei, e quindi lavorare su questo, identificandola, cioè, quindi di fatto da quel che lei è riuscita a capire, immagino anche parlando con i magistrati, l'attenzione si è concentrata esclusivamente su di lei, cioè non sono state prese in esame altre ipotesi. Per quanto risulta dagli atti, dopo appunto la redazione di questa tabella dei turni sospetti, che è stata elaborata appunto, ripeto, dagli inquirenti e dall'azienda, e quindi senza l'intervento di un soggetto terzo che avrebbe potuto comunque, a mio avviso, anche a livello specialistico forse spiegare determinate dinamiche dello stesso farmaco che loro avevano identificato come il farmaco killer, e quindi sulla base di questa tabella sono arrivati alla Bonino e verificando i turni, che poi non tornavano neanche. Infatti questa è una cosa che noi abbiamo subito segnalato, c'erano dei decessi che erano intervenuti addirittura dopo sei giorni dal turno identificato come sospetto, il tutto incompatibile diciamo con quel farmaco, diciamo. Esatto, era tutto era incompatibile con gli effetti di quel farmaco. Infatti, secondo me, la grossa lacuna di questa indagine è stata la mancanza di una perizia specifica sugli effetti, sulle dinamiche dell'eparina, visto uno per uno, perché chiaramente l'eparina, mi sono fatta una cultura forzosa anch'io, purtroppo, in questa vicenda, anche se faccio l'avvocato, a livello di medicina, perché chiaramente l'eparina ha degli effetti diversi secondo il soggetto, secondo quanto peso, secondo che patologia ha, secondo le patologie sue proprie e quelle per le quali viene ricoverato. I tempi di azione sono diversi secondo la modalità di somministrazione, secondo la tipologia, se sono le classiche punturine o se viene fatto in via endovena. Insomma, diciamo, c'erano una serie di variabili che avrebbero dovuto essere prese in esame e che non sono, e che sostanzialmente non stiamo facendo noi adesso, è quello che state facendo voi adesso. Esatto, allora, sto facendo con il nostro perito. Sì. Allora, io la ringrazio, grazie a Cesarina Barghini, e continueremo a seguire la vicenda, perché ci sembra interessante quello che è avvenuto, appunto, anche dal punto investigativo. Ma adesso vogliamo cambiare argomento e passare a Roma, dove a quanto pare è a rischio la ripresa del servizio dopo lo sciopero proclamato per la giornata di oggi, e abbiamo in linea con noi Micaela Quintavalle, che torna ai nostri microfoni ed è guida il sindacato Cambiamenti M410 dell'ATAC, un sindacato autoferrotrambieri di Roma. Quintavalle, bentornata. Sì, grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. È un sindacato nazionale, però insomma sì, la sì. massima rappresentanza è in ATAC. Allora, in coincidenza con lo sciopero di oggi, dice l'ATAC, abbiamo rilevato un notevole aumento dei casi di malattia e di richieste di utilizzo di permessi, in particolare sulla linea B. Cosa succede? Lo sciopero era proclamato per 24 ore, il prefetto Gabrielli ve l'ha ridotto, dico genericamente insomma, a voi lavoratori dell'ATAC, a 4 ore e poi improvvisamente aumenta il numero di malati. Lei capisce che c'è qualcosa che a noi stona abbastanza? No, io non voglio capire, perché veramente invece a me sembra che si voglia sempre coprire la facoltà dell'autoferrotranviere di diritto allo sciopero, nel senso che se ci sono Sono malattie, questo io sto parlando delle malattie, ma dell'aumento anomalo delle malattie nel giorno del Natale di Roma. Nel giorno del Natale di Roma, allora andiamocelo a prendere con i medici, studio anche medicina, un medico non è che va a mettere la propria firma se la persona non è malata, andiamocelo a prendere con i medici che non visitano o che non controllano eventualmente le persone, dal momento che un medico mette la propria firma dicendo c'è questa patologia e questa persona deve stare 2 o 3 giorni a casa, è insindacabile. Sì, allora guardi, dei medici compiacenti ci siamo occupati spesso e di frequente in passato, e questo è un problema, mi scusi, questo è un problema, però sì. Dal punto di vista, io sto parlando con una sindacalista del trasporto pubblico, le dico solo che non mi risulta che ci siano state tutte queste schede di malattie aperte, mi perdoni ma non mi risulta, mi sembra assolutamente... Vabbè, l'azienda lo saprà però... Sì, ma l'azienda può sapere quello che vuole, anzi, siccome adesso siamo anche alla fine del mese con l'accordo vergognoso del 17 luglio e gli autoferrotranvieri comunque sanno bene che perdono dei soldi se sono in malattia, stanno attentissimi, data la crisi che c'è, a non venire a lavorare non solo quando stanno bene, ma anche quando stanno con 39 di febbre. Quindi l'azienda può dire quello che vuole, purtroppo quando lo sciopero è indetto da sigle più piccole, anche l'azienda che invece è abbastanza collusa con le sigle più grandi tende a dire cose non vere, comunque poi documentazioni alla mano se ne potrà riparlare, ma a me non risulta. Quindi se a lei non risulta, immaginiamo che oggi, finito lo sciopero, che se non sbaglio finisce alle 16:30, alle 12:30, quindi immaginiamo che da questo momento sarà regolare il... Sempre, nel senso che il cittadino ha diritto di scioperare fino alle 12:30, solitamente noi torniamo in deposito intorno a mezzogiorno e 10, prendiamo le vetture e raggiungiamo Benissimo. Capolinea. Allora, vedremo. Allora, facciamo così, Quitale. Lei contesta, come dire, i numeri dell'azienda, vedremo come andrà il pomeriggio dal punto di vista dei trasporti pubblici a Roma e poi magari ci risentiremo. Intanto io la ringrazio e passiamo a parlare di adozioni. Dura da 938 giorni l'attesa per una 50 di famiglie italiane che hanno adottato in Congo. 938 giorni, abbiamo detto, sono circa 1 migliaio di giorni. La situazione dei documenti si è sbloccata, 51 bambini sono arrivati a Roma, ma ne restano lì 83. Una di loro è figlia di Fabrizio Vertua, sentiamolo intervistato da Valentina Furlanetto. Ci sono dei bambini che sono ancora in Congo per delle motivazioni che non ci vengono fornite. L'opinione pubblica è convinta che la situazione sia risolta da quel maggio 2014, 2 anni fa, quando abbiamo visto alcuni bambini scendere dalla scaletta dell'aereo con la ministra Boschi. Ecco, l'assurdo è quello. Quelli erano 31 bambini. Ai tempi ce n'erano ancora oltre 150 che aspettavano. A voi, tra l'altro, viene anche impedito di andarli a trovare. Eh sì, viene sconsigliato di andare in Congo per evitare che ci siano dei rallentamenti. Quindi tua figlia la vedi ancora solo su Skype? Mia figlia l'ho vista ieri su Skype. Adesso ci fermiamo, come sempre c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e nella seconda parte della trasmissione torneremo sulla nostra notizia di apertura, questa indagine che riguarda l'ospedale di Reggio Calabria. Lo faremo col direttore generale dell'azienda sanitaria, perché i magistrati parlano anche di copertura per questa vicenda, coperture che sono arrivate appunto anche dalla stessa azienda sanitaria. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano i bimbi resi invalidi o morti durante il parto per errori poi coperti dalla struttura. 4 medici sono stati arrestati a Reggio Calabria. I troppi autisti malati a Roma nel giorno del Natale della città e a rischio la ripresa del servizio dopo lo sciopero. Forza Italia dà mandato a Berlusconi, è notizia di pochi istanti fa, di scegliere il candidato per Roma, dunque verso l'addio di Bertolaso, ma c'è ancora incertezza. È stata accesa la torcia olimpica e partita come sempre dalla Grecia, attraverserà anche il campo rifugiati vicino ad Atene. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Procurati aborti, bimbi resi invalidi da manovre sbagliate o affrettate, partorienti ferite o maltrattate, interventi ma riusciti, tutto coperto da cartelle cliniche false e confezionate allo scopo. È su questa ipotesi e su queste accuse che oggi sono stati arrestati 4 medici, sono altri 7 operatori sanitari degli ospedali riuniti di Reggio Calabria che sono stati sospesi dalle loro funzioni. Questo sulla base di un'inchiesta appunto della Procura di Reggio Calabria. E queste sono le accuse. Saluto Frank Benedetto, che è direttore generale dell'azienda sanitaria, appunto, degli ospedali riuniti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, Benedetto, tra le altre cose, la procura scrive che il sistema di copertura illecito era condiviso dall'intero apparato sanitario. E io quindi, prima di tutto, vorrei una risposta da lei su questo. Bene, non ho ancora letto tutto quello che è stato consegnato perché è copioso. Le posso dire che i fatti risalgono al 2010, epoca verosimilmente in cui era stata aperta un'inchiesta. La nostra direzione strategica si è invece insediata dal 2 aprile 2015. Comunque, in ogni caso, noi abbiamo una piena e incondizionata fiducia nell'operato della magistratura, perché questi sono argomenti molto delicati e se l'azienda dovesse essere accertata tutte queste responsabilità, così come sono state denunciate, credo che veramente ci siano dei fatti gravissimi in cui noi prenderemo immediatamente dei provvedimenti. Mi auguro che i soggetti interessati possano dimostrare, diciamo, la loro estraneità ai fatti, però in questo momento la direzione strategica, abbiamo in corso in questo momento una riunione con tutto il massimo vertice della sanità calabrese, c'è l'ingegnere Scura che è il commissario ad acta, il dipartimento di tutela della salute, la regione, tutti i funzionari sono qui proprio perché stiamo operativamente organizzando un'attività in maniera tale che si possa assicurare la continuità assistenziale e chirurgica dell'unità operativa. Certo, perché poi c'è anche questo problema, cioè di fatto tutto il reparto è stato sospeso e non può lavorare perché c'è il primario, l'ex primario. Allora no, per essere chiaro, l'ex primario è andato in pensione. Noi da circa 5 giorni abbiamo il nuovo primario, perché nel frattempo abbiamo esitato il concorso e lui non è assolutamente indagato, è un primario che viene da fuori regione, che ha preso servizio lunedì e che si è trovato in questa situazione abbastanza grave, che comunque è qui con noi, che sta cercando operativamente di venire a fronteggiare questa grave emergenza. Certo. Noi in questo momento abbiamo 5 soltanto medici nel reparto e stiamo facendo un coordinamento provinciale e regionale affinché degli ostetrici vengano requisiti da altre aziende e vengano inviati qui a Reggio per poterci dare una mano per sopperire alle esigenze di un hub importante come quello provinciale di Reggio. Ovvio. Senta, Benedetto, evidentemente non hanno funzionato dei meccanismi di controllo, oppure in alternativa immagino che l'indagine si dovrà estendere, perché no, le cose sono due, no? Io credo che bisogna leggere tutta la documentazione, in questo momento non so risponderle in merito a quello che viene contestato perché gli atti sono molto complessi. Ovviamente noi adesso leggeremo e proprio sulle oggettive valutazioni che verranno fuori dai documenti che ci hanno consegnato, noi prenderemo le nostre immediate decisioni che prenderemo oggi stesso. Oggi stesso quindi prenderete delle decisioni, sì, su questo? Assolutamente, l'immagine dell'azienda in questo momento, l'azienda è un'azienda storica e va tutelata, in questo momento noi abbiamo tutto l'interesse per tutelare i cittadini e garantire la qualità e l'assistenza a tutti i cittadini, ma allo stesso tempo anche agli operatori che lavorano tutti i giorni in azienda. E che lo fanno bene, che presumibilmente sono la maggioranza. La ringrazio, grazie a Frank Benedetto per essere stato con noi. Ancora cronaca con una ragazza di 19 anni che ha perso la vita a Milano investita da un Frecciarossa. 19 anni, la fretta di raggiungere l'università, il lavoro, un'amica. Sono le 7:48, la musica a far da compagnia. Proprio quelle cuffie, quella musica troppo alta, l'hanno uccisa. È successa a Milano Certosa, la ragazza è stata travolta dal treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Napoli. Non la prima vittima, purtroppo, della distrazione killer di tanti giovanissimi, e non solo in Italia. Pensate che nel 2013 6 ciclisti persero la vita in pochi giorni a Londra in incidenti stradali causati dalla musica in cuffia troppo alta. Il sindaco Boris Johnson propose di vietarne l'utilizzo. Sarebbe utile anche per i pedoni, facile a dirsi però, difficile a realizzarsi. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di Auditel che cambia. Auditel si cambia. Dopo le polemiche degli ultimi mesi sullo svelamento del panel che aveva portato all'avvio della sostituzione delle famiglie campione, si passa a studiare nuove metodologie che potrebbero portare a una piccola rivoluzione negli ascolti e quindi a una diversa valorizzazione dei programmi che valgono globalmente circa 4 miliardi di euro di pubblicità. Ora Auditel punta ad estendere le misurazioni a smartphone, tablet e PC, mezzi usati soprattutto dalle nuove generazioni anche per guardare la TV tradizionale. Al momento si stanno studiando le metodologie, ma entro la primavera 2017 si potrebbe cominciare a implementare il sistema, che arriverebbe a regime anche con la completa sostituzione e l'allargamento del panel nell'autunno del prossimo anno. Una valutazione più accurata chiesta dai pubblicitari dell'UPA, che nel nuovo board di Auditel pesano più dei rappresentanti tanti dei canali televisivi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.